andare perché il nostro candidato sindaco Mario Puccini, che ringrazio moltissimo per aver trovato il tempo di essere con noi questa sera, poi come succede spesso in queste giornate, deve saltare da un'altra parte per un'altra, per un altro impegno, per cui è importante che riusciamo ad avere lo spazio per ascoltarlo appunto prima che ci debba lasciare. Io vi ringrazio moltissimo per essere venuta a questo incontro, per essere così numerose, credo che altre persone riusciranno a raggiungerci nel proseguo della serata, e vi ringrazio perché mi sembra che sia un bellissimo messaggio quello che esce dall'incontro di questa sera, che c'è un'iniziativa congiunta delle cinque liste che compongono la coalizione del centro-sinistra a sostegno di Mario Puccini, e che è un'iniziativa che è scaturita dalla volontà delle donne che sono candidate nelle cinque liste. E quindi questo a conferma della nostra volontà di costruire una coalizione coesa e forte che riesca a portare il centro-sinistra alla guida di questa città attraverso Mario Puccini sindaco, e del fatto che anche nei nostri comportamenti l'intesa e la collaborazione fra le donne riesce a venire prima di qualsiasi altra difficoltà che le appartenenze, in questo caso di lista, possono creare. Quindi, dicevo, mi sembra un segnale molto importante. Io mi scuso con voi che volevo proiettare rapidamente alcuni dati, ma i potenti mezzi a nostra disposizione non ci aiutano. E questo? No, questi ce li ho. Niente, aprirei e vi comunico anche un piccolo cambiamento rispetto al programma, proprio per consentire a Mario Puccini di essere con noi. Quindi io vi volevo semplicemente illustrare alcuni dati su cui abbiamo riflettuto, che caratterizzano la partecipazione femminile a queste elezioni amministrative. Poi lascerei la parola a Francesca Zajcic, soprattutto nella sua veste di delegata del sindaco Pisapia alle pari opportunità, per così un breve racconto su quella che è l'esperienza di un anno di una giunta paritaria che a Milano sta lavorando con difficoltà ma anche con grande tenacia, e poter ascoltare appunto poi Mario Puccini. Poi riprendiamo con il programma che ce l'avamo prefisse, ma io partirei semplicemente da questa frase che è riportata sul volantino di questa iniziativa e che fa parte del libro di Francesca Zajcic, che afferma: c'è uno scandalo in Italia che fa ancora poco scandalo e sta nei numeri molto bassi della presenza delle donne nelle stanze decisionali della politica. Ecco, questo mi sembra una constatazione che anche la situazione comasca indubbiamente conferma, ed è una situazione che noi ci proponiamo di contribuire a superare proprio attraverso l'esperienza che abbiamo avviato con la creazione delle liste e che vogliamo superare attraverso i risultati elettorali, che dovranno dare senz'altro successo alla nostra coalizione e anche alla presenza delle donne. Dunque, i dati che vi volevo presentare inizialmente, una prima riflessione è questa: a Como andranno al voto, secondo gli ultimi dati disponibili, questo purtroppo non possiamo neanche far finta di proiettarlo perché non siamo riusciti, andranno al voto poco meno di 70.000 elettori, 69.662. Di questo complesso di votanti le donne sono la maggioranza, sono oltre 4.000 più degli uomini, sono 36.918, cioè rappresentano il 53%. Sottolineo questo dato per una considerazione banale: l'esito della questa tornata elettorale è nelle mani delle donne. Essendo la maggioranza, possono con forza esprimeranno la loro volontà sono quelle che possono influire, ancora solo per dati numerici, prima ancora che per le loro scelte, sui risultati di queste elezioni. È importante ovviamente che questo diritto venga esercitato. Io credo di dire una cosa scontata, ma è importante averla presente. È importante che tutte noi si faccia il massimo sforzo, anche specificatamente sulle donne, perché la partecipazione a queste elezioni sia massiccia. Quindi recuperare una larga fascia del non voto dell'astensionismo a favore del centro-sinistra. Dicevo quindi che le donne sono la maggioranza, in termini percentuali sono il 53% degli elettori. L'affermazione che richiamavo prima del libro di Francesca è confermata, perché rispetto a questo 53% di donne votanti, le donne che sono candidate, che sono presenti nelle varie liste, sono leggermente al di sotto del 30%. Quindi una distanza molto ampia che conferma che la democrazia paritaria, che quindi dia le maggiori, le stesse opportunità di presenza alle persone di diverso genere, ha un traguardo ancora da raggiungere. Gli altri dati che invece forse riusciamo a seguire un attimo di più nelle slide, anche se le condizioni, no, direi che non si vede qualche cosa, è questa analisi che è stata fatta appunto sulla presenza delle donne nelle diverse liste, che torno a dire complessivamente vede 210 donne in lizza, pari al 29,8% del totale. Per quanto riguarda i candidati sindaco, voi sapete ci sono in questo caso due donne su 16, e non sto comunque a commentare questo dato, anche perché in questo caso la estrema frantumazione delle presenze mi sembra proprio che infici qualsiasi tipo di ragionamento. Sono in larga parte delle presenze laddove c'è una candidatura comunista, che io mi permetto di dire, un'affermazione che faccio a titolo personale, che è un buon inganno per l'elettore, perché è chiaro che la persona ha pochissime possibilità, ci sono poche possibilità di essere eletto, e quindi poi quelle che saranno le scelte successive di costruzione di uno schieramento sono assolutamente ignote, non vengono scelte dai cittadini. Ecco, ma andiamo un attimo a vedere qual è rispetto a questa presenza totale, quindi andrei sulla pagina precedente e vi segnalerei quelle che sono le due presenze più significative. Allora, i due estremi, troviamo una lista, Amo la mia città, che ha puntato molto sulla presenza femminile, e vedete che c'è un 56,25% di rappresentanza femminile, che quindi ci mette addirittura un pochettino più avanti rispetto a quella che è la composizione dei votanti. Al polo opposto, e non ci sorprende, è Forza Nuova, che con due sole, che sta nella seconda pagina, Forza Nuova che con due sole candidate in lista copre su 22, non hanno una lista completa, copre solo il 9%. Ecco, al di là di queste due punte estreme, io a questo punto vi farò girare dei fogli stampati che sono più chiari. Al di là di queste due punte estreme, quello che si può osservare è che comunque complessivamente le forze di centro-sinistra, quindi la coalizione, e di sinistra, sia sinistra per Como che assimilo al centro-sinistra, ecologisti e reti civiche, sono senz'altro fra le forze che hanno una presenza più forte. Sono tutte al di sopra di quello che è il dato medio, attorno, si avvicinano al 40%. Quindi si riconferma una corrispondenza fra uno schieramento di centro-sinistra ed una maggiore attenzione alle tematiche di genere e alla costruzione di una democrazia paritaria. All'opposto, viceversa, e sono soprattutto appunto le forze della destra o del centro-destra, hanno una, in molti, moltissimi casi, la presenza delle donne non è al di sotto del 20%. Quindi largamente inferiore a quella che hai preso. Questa elaborazione che vi lascio, ovviamente mi scuso, sono salvo errori ed omissioni, perché questa è un'osservazione che voglio fare, è stato difficile trovare anche quella di Davide, nel senso che proprio bisogna andare a spulciarsi le liste leggendo nome su nome, certo è pubblicato sul sito, però riflette quindi, soprattutto in un momento in cui abbiamo in vista anche dei cittadini di origine straniera, dove è anche difficile certe volte individuare dal nome se stiamo parlando di un uomo o di una donna, mi sembra, ed è una segnalazione che voglio fare anche Francesca, che sia una sottolineatura di quanto veramente l'attenzione alle tematiche di genere sia lontana. Abbiamo delle leggi ripetute, so di una circolare della consigliera regionale di parità di questi giorni, che ricorda alle aziende e agli enti pubblici che devono fornire delle statistiche molto puntuali su quanti sono i dipendenti uomini e donna, è una legge che ha 20 anni di storia, e paradossalmente il Ministero dell'Interno, che si occupa delle elezioni, non è previsto da nessuna parte che ci sia questo momento di riflessione, di raccolta dati su quanti sono gli uomini o le donne che sono in lista. Mi sembra proprio al di là delle leggi e delle volontà, poi non si ha nemmeno questa piccola attenzione. Quindi questo per richiamare il fatto che abbiamo un ruolo molto importante da giocare in questa occasione. Vi ho dato dei dati quantitativi e chiudo rapidamente proprio per lasciare il tempo agli altri. Se andiamo poi a leggere all'interno, vediamo anche quanto delle posizioni molto strumentali, le 4 donne candidate nella lista del PDL che candida come sindaco una donna, Laura Bordoni, a queste 4 donne le mette in cima come una sorta di specchietto per richiamare l'attenzione, cioè quindi è molto, si presterebbe a delle riflessioni molto più approfondite. Ecco, io voglio solo comunque introdurre 3 spunti di riflessione su questa scarsa presenza, dove con lucidità e con correttezza dobbiamo riconoscere che c'è sia il permanere di una visione discriminante nei confronti delle donne in politica, tout court, che quindi porta a così come se un giudizio di non adeguatezza, di non esperienza, di non capacità che viene attribuita alle donne in questo, che le donne, diciamo così, non sono ancora riuscite a superare, non sono riuscite a farlo in politica, sono riuscite a farlo in politica molto meno di quanto a fatica siano riuscite a farlo in ambito lavorativo. Ma ci sono anche altri elementi, c'è sicuramente il condizionamento più pesante che i tempi di vita e di lavoro per una donna comportano e che inevitabilmente lasciano molto meno spazio per un impegno anche in ambito politico. Credo che sia stata esperienza di tutte quante noi, di tutte le liste del centro-sinistra, aver avuto difficoltà nel chiedere a delle donne la disponibilità di candidarsi e aver trovato proprio come motivazione alla risposta negativa il fatto che non ce la fanno, cosa che incide poi in modo particolare sulle giovani donne che lavoro, famiglia, figli piccoli, non a caso, io questa cosa la faccio perché sono in pensione, va riconosciuto. E l'altra cosa, però, di questo credo che sia un elemento su cui forse nella seconda parte possiamo ragionare, io credo che sia importante anche interrogarsi su tutte quelle motivazioni per cui molte donne, non riconoscendosi in questo modo di essere nella politica e di funzionare delle istituzioni, se ne distaccano, non vogliono, non hanno la disponibilità a mettersi in gioco, a mettersi in campo per una politica che è una cattiva politica e che funziona così male. Con ciò però, e questa è la mia personale valutazione, rinunciando alla possibilità di cambiarla in una buona politica. L'ho fatta già fin troppo lunga, mi scuso, e senz'altro chiederei a Francesca di raccontarci la sua esperienza di giunta paritaria in una città importante e grande come Milano, a un anno di distanza, che cosa è riuscita a, se la presenza delle donne è riuscita a fare la differenza. Intanto credo che sia importante, ringrazio qua per quelle, per due ragioni. Uno, la campagna elettorale, e l'altro, certamente, anche la possibilità di parlare dell'economia di Assunta Salvo, che vuole proprio rispondere un po' all'obiettivo di parlare, di confrontarsi, di provare a raccontarsi quali siano i problemi ancora oggi del rapporto delle donne con la politica, la partecipazione, il voto, eccetera, eccetera. Una premessa è d'obbligo, e cioè che l'esperienza della giunta milanese, così come di alcune altre città italiane, che sono in particolare Bologna, Torino, Trieste, Cagliari e parzialmente Napoli, è l'epilogo di una fase di grande partecipazione delle donne a livello nazionale. Cioè, quindi evocando quello che era il nome di un'associazione, Usciamo dal Silenzio, che è uscita dal silenzio e portò fuori le donne in piazza nel 2006, in realtà l'anno scorso le donne sono uscite dal silenzio, e non parliamo del motivo, di quello che è stato forse il motivo scatenante, quello che forse in quel momento, più di quanto avrebbero potuto essere altri motivi, è stato capace di aggregare donne molto diverse, di età, di storia, e anche di rapporto, con un rapporto con la politica. Dico questo perché il risultato di avere delle giunte paritarie, quindi anche a Milano, non l'avrei mai dato per scontato prima, e comunque quando abbiamo fatto e ho partecipato alle primarie, io ho partecipato fin dall'inizio perché sono stata una delle primissime firmatarie proprio per Giuliano Pisapia contro anche il partito di cui facevo parte in consiglio comunale. E è stato un percorso, durante le primarie e poi anche in campagna elettorale, un percorso, intendo dire, di crescita delle donne milanesi attraverso le diverse forme di associazionismo e anche di donne dei partiti e di rapporto tra questi due mondi, che è un tema, poco sarebbe un tema di discussione, ma devo dire anche è stato un percorso nei confronti del candidato sindaco, assolutamente non scontato, cioè quindi da un inizio, tanto vi posso dirlo perché non riesco, non mi siete qui, ma da una fase iniziale in cui il tema delle donne quasi non c'era, e comunque era molto razionale, quasi un dover esserci, ha cominciato poi a entrare nella stesura del programma, e necessariamente, quindi anche il candidato sindaco, come dire, ha studiato, e all'inizio lui ha studiato, come dire, non gli usciva proprio dal cuore, o per meglio dire, man mano che che si convinceva profondamente, quindi non come fatto solo razionale, ma profondamente, che la questione era davvero importante, che era un tema, come dire, di democrazia, e che comunque lui lo vedeva, lo toccava con mano, che le donne e anche le giovani donne facevano parte della campagna elettorale di questo, come dire, popolo arancione, è andato avanti, si è arricchito questo processo di consapevolezza, come dire, sua, e quindi anche di capacità di poi esprimere un pensiero con un cuore, no? Sempre di più con il cuore. Però io credo davvero che sia importante tenere a mente questo, perché non fa parte della cultura maschile per lo più, ma neanche di quelli più illuminati, come dire, bravi, seri e democratici, come sicuramente era ed è Giuliano Pisapia. Forse qui è la stessa cosa, non lo so. Questo davvero è stato molto interessante, io lo posso davvero dire proprio perché ho sentito Pisapia fin dal suo dalla sua prima uscita e farei come una questione più generale, perché in realtà anche se lui era stato parlamentare, il rapporto che c'è poi in una campagna elettorale sulle questioni quotidiane della propria città, della propria comunità, del proprio vivere, abitare, è diverso. Almeno io proprio guardando lui, ascoltando lui, mi sono resa conto che era molto, molto diverso, perché sembrava quasi una persona che senza esperienza politica, invece ce l'aveva, ma di un certo tipo, di un certo tipo. E quindi è sicuramente difficile e si impara. Questo è l'aspetto importante, che poi in realtà come tutte le cose, insomma, facendole quanto più si fanno e con la mente e col cuore si impara. Detto questo, la diciamo, pressione nazionale e poi anche locale ha molto molto pesato nelle scelte delle giunte paritarie. Non c'è assolutamente, non ho dubbi nel fare questa affermazione. È come dire un processo a cui si è arrivati, che non era affatto dato per scontato inizialmente. Certo che quando si è cominciato a scrivere nero su bianco e il candidato sindaco ad affermarlo, come dire, dopo è diventato, nel momento in cui si è vinto, è diventato quasi impossibile non dare corso alla promessa, che era una promessa che sottolineava la presenza di una vice sindaca donna, altro tema che a Milano ha scatenato, come dire, una conflittualità facilissima da gestire poi dopo le elezioni, e poi una giunta paritaria, quindi con un numero pari di assessori, donne e uomini, che sono a Milano 6 e 6. Si tratta di donne, anche questo è un aspetto interessante, in parte come del tipo politico, in parte anche di riflessione da un punto di vista del movimento delle donne, perché sostanzialmente mentre gli uomini assessori sono assessori, come dire, politici, cioè che vengono da una storia e da un'esperienza politica e hanno quell'obiettivo nella vita, per quanto riguarda le donne invece si è messo al primo posto la competenza, il sapere, la competenza, la professionalità, che è un dato, come dire, assolutamente come di pregio e da richiamare. Però, come dire, sottolineo questo fatto, no? Che appunto le donne devono essere competenti e gli uomini non necessariamente. Anzi, devo dire che rispetto poi lucida, però di fatto è andata così. Per voglia vedere che avrebbero ottenuto. L'altra scelta che Pisapia ha fatto è questa di, come dire, un po' inventarsi questo mio ruolo, inventarsi perché non ha seguito una strada che è quella abituale di dare le deleghe o la delega alle pari opportunità a un assessore o quantomeno a una consigliera, ma si è tenuto le deleghe decidendo di assegnarle ad una persona, diciamo, di sua fiducia. E anche qui c'è stato, come dire, un piccolo dibattito tra me e lui, perché io avrei voluto che le deleghe riguardassero le politiche di genere, quindi con una visione, come dire, esplicitamente trasversale e anche legata alle politiche, e la scelta un pochino, come dire, più tradizionale, meno invasiva rispetto poi agli assessori, all'assessore, eccetera, è stata quella di pari opportunità. È una scelta comunque coraggiosa, proprio anche per il tipo di figura che lui ha individuato, cioè una figura fiduciaria del sindaco. Come tutte le cose nella vita ci sono, come dire, i pro e i contro, perché al di là del fatto che io sono onoratissima di ricoprire questo ruolo, ci sto lavorando tantissimo e con grande difficoltà. Con grande difficoltà, tra le altre cose, anche perché è un ruolo ambiguo, questo lo dico, perché io non sono una politica, no, cioè non è un ruolo politico e non è un ruolo amministrativo, sono fiduciaria del sindaco. Come può fare la fiduciaria del sindaco? Boh, nessuno lo sa. E quindi io ho impiegato i primi mesi per capire un po', di spiegarmela, fino a che ho deciso che facevo quello che pensavo che avevo voglia di fare, o che ritenevo giusto fare, o che mi veniva chiesto, i limiti delle mie possibilità, e poi se c'erano dei contrasti si sarebbero in qualche modo risolti. Però, e anche questo lo dico, io sono sola. E anche questo è un problema da un punto di vista della poi realizzabilità delle iniziative, nel senso che non ho una struttura, non ho una budget, chi lo sa, se forse qualcosa potrà uscire dal prossimo bilancio, ma con i tempi che corrono è dura, e certo il tema delle pari opportunità non è, come dire, al centro dei pensieri di Bruno Tabacci. Però, come dire, questo è un problema. Detto questo, invece, per quanto riguarda la presenza delle assessore, quello che, come dire, io so, soprattutto parlando con loro e come sensazione, perché io non sono in giunta, è che c'è sicuramente un effetto positivo. È un effetto positivo perché le assessore sono, direi, sufficientemente coese tra di loro, o almeno su alcune modalità di, come dire, di azione. A parte il fatto che sono gli attivisti, questo ve lo diceva proprio il sindaco, sono le prime ad arrivare alle riunioni di giunta e per lo più le ultime ad andare via, indipendentemente dagli impegni familiari o quant'altro. Sono molto, come dire, concrete, molto finalizzano molto, perché hanno poco tempo comunque, e sono, come dire, più attente comunque all'uso del tempo e anche alle cose che loro devono fare, e quindi costringono un po' di più gli uomini e la giunta nel suo insieme a disperdersi e a non, come possiamo dire con un gergo un po' colloquiale, non parlarsi addosso, ma ad arrivare al dunque e ad essere concrete. E tra di loro appunto si è creato un eccellente rapporto, naturalmente tra le comunate, e questo consente loro anche di confrontarsi e di, come dire, provare a fare dei ragionamenti trasversali, non solo di politica in senso stretto, ma rispetto per esempio anche al funzionamento della macchina, cioè nei confronti del direttore generale e del capo di gabinetto e così via. Quindi sicuramente voto, il voto per il sindaco e per la giunta da questo punto di vista è più che positivo, è più che sufficiente. E poi devo dirvi anche che è un sempre, come dire, da una persona che è un po' in qualche modo un po' esterna, no? È un bel messaggio, cioè non se ne può più di vedere riunioni, convegni, manifestazioni, perché poi ci sono solo uomini. Cioè qualcosa è passato nell'immaginario delle persone, non ancora completamente, cioè non c'è una totale consapevolezza, però è come se ci fosse un livello di disagio che magari poi molte persone, prima fra tutte magari molte donne, non saprebbero neanche dire bene perché, non lo sanno, non hanno ancora elaborato questo pensiero. E però comincia ad esserci, è un altro, devo dire, banale di democrazia. Un'ultima cosa voglio dire, allora questa delle giunte è una scelta, è una strategia, come dire, politica di azione del sindaco che vince, perché è una cooptazione ed è quindi chi vince che decide come comporre la propria squadra, naturalmente con tutte le mediazioni del caso, figuriamoci, c'è la coalizione, ci sono i partiti e quant'altro, ma come dire, è una cooptazione. Altra cosa invece è quella poi dell'esito delle elezioni dal punto di vista della composizione del Consiglio e quindi della presenza di donne nell'assemblea. Questo continua ad essere un problema perché in queste stesse città dove c'è la giunta paritaria, in realtà il consiglio è a Bologna, che è quella dove c'è il maggior numero di donne, hanno raggiunto il 33%, e a Cagliari invece sono il 5% del consiglio comunale delle donne, quindi sono ancora, per dire, molto poco, per Milano stessa ho raggiunto il 30%, e però queste poche, diciamo, sono praticamente la maggioranza, Milano sono la quasi totalità del centro-sinistra, e questo è un aspetto interessante, come dire, di campagna elettorale, no? Nel senso che c'è comunque un'attenzione da parte delle coalizioni di centro-sinistra, ma anche un terreno che pur con tutte le difficoltà può essere, come dire, fertilizzato, e quindi ci vuole una spinta. Questo ci torniamo ancora dopo magari nel nostro dibattito, lasciare se c'è a Mario Cucini il tempo di parlarci. Allora, innanzitutto vi ringrazio per l'invito, visto che sto imparando e devo imparare, sono preziose per me queste occasioni, quindi vi ringrazio e mi scuso allo stesso tempo per la presenza piuttosto fugace. Devo dire che i dati che ci ha illustrato Gisella e anche il quadro della situazione che ci è stato dato anche a livello più generale dimostrano che dobbiamo ancora camminare parecchio. Io so che almeno all'interno del centro-sinistra, da parte di tutte le liste, c'è stato un impegno sincero per cercare di raggiungere l'obiettivo paritario. Qualcuno è stato più abile, qualcuno meno abile, però la volontà da parte di tutti l'ho percepita in modo rilevante. Io, vabbè, con i limiti della mia impostazione culturale di genere, leggo la situazione più che come una scelta della politica o degli uomini della politica di tenere fuori le donne, più come una difficoltà di creare le condizioni sociali perché le donne possano con la stessa libertà degli uomini impegnarsi in politica. Sempre colpa degli uomini, però non è una valutazione soggettiva, per cui di parte, se vogliamo, di genere, per cui non so quanto possa essere condivisa, però io non mi sento di percepire una difficoltà da parte degli uomini della politica ad aprire la partecipazione alle donne, magari gli stessi uomini che nella realtà sociale però faticano a impegnarsi per creare le condizioni perché questo possa avvenire. E sto imparando anche dall'impegno rilevante che avete dato, che hanno dato le donne che hanno partecipato ai gruppi di lavoro. Mi è sembrato molto, molto convincente l'apertura del capitolo che riguarda lo sguardo differente sulla città, che fa riflettere proprio su questi aspetti, cioè sul fatto che l'impatto delle scelte politiche non è lo stesso per un uomo e per una donna, e che creare le condizioni di conciliazione del tempo della cura, della famiglia, del lavoro, del tempo personale, con un'attenzione alle donne è un beneficio per tutti. Questo mi sembra molto convincente e l'ho capito meglio di quanto lo percepissi immerso nel mio clima normale, quindi di questo vi ringrazio. Io credo che l'impegno per valorizzare questo aspetto, io la cosa che anche di quello che è appena stato detto mi sembra di percepire in modo più rilevante, poi ci sono mille cose per cui lo sguardo di una donna è diverso da quello di un uomo, ma nella politica quello che vedo come un elemento più facilmente riconoscibile è la concretezza. È la concretezza che le donne allenano e sperimentano nella vita quotidiana, mentre molto spesso gli uomini sono più dispersivi, le donne devono organizzarsi talmente bene che vivono e sperimentano quotidianamente la concretezza e possono portare un contributo forte alla politica in questo senso, e forse la scarsa concretezza che sovente caratterizza la politica è uno di quegli elementi che magari disincentiva le donne ad entrarci, quindi questo credo sia un altro motivo di riflessione per tutti su cui lavorare tutti insieme. Sul discorso della giunta noi non l'abbiamo scritto nel programma, però mi sembra sicuramente non potevo scappare senza, non l'abbiamo scritto. Io penso sinceramente che sia, allora non mi sento di fare una promessa in questo momento, anche perché potresti lanciarla, potrebbe no essere... Mi sembra importante impegnarsi a porselo come obiettivo, con anche l'impegno di differenziare rispetto a quanto è stato descritto da Milano sul fatto che per le donne si sia ricercata più la competenza, per gli uomini più. Io credo che in questo momento, nelle difficoltà che sta vivendo la nostra città, uno dei criteri fondamentale dai quali non si può scappare è proprio quello della competenza per tutti, che in alcuni casi dovrà essere anche abbastanza specifica, e solo per questo non mi sento di fare una promessa in assoluto, ma mi sento di promettere il mio impegno per considerare questo un obiettivo che secondo me però deve essere inserito anche nell'esigenza di dotarsi di risorse in grado di dare risposte a domande molto difficili che la città ci pone. Hai tanti di quei talenti su cui poter scegliere, che comunque siamo stati attenti, che l'essere, come dire, donna non necessariamente vuol dire avere uno sguardo di genere. Questo è un tema, perché potremmo parlare anche del governo. Certo. No, l'altra sera non sono intervenuto perché c'era tutta la storia della linguistica, ho detto che io meglio che sto zitto perché due o tre toppe le faccio sul linguaggio, questo sono terrorizzato. Scusate, io credo che mi scuso per la, proprio la, la scarpata che ho fatto. Una cosa sola che se, mi ha sorpreso questa cosa di questo processo di trasformazione di Pisapia che Francesca ci raccontava. Io credo che sia stato dovuto anche dal fatto che il sostegno delle donne nella campagna elettorale di Pisapia credo veramente sia stato straordinario e determinante anche per quello. E io credo che l'impegno delle donne a Como sarà analogo e quindi poi... E quindi sarò costretto a non tenere più. Grazie. Yeah. una delle cose più interessanti è il discorso sul bilancio di genere, è stata accolta assolutamente col favore generale, non c'è stato nessun tipo di difficoltà, però la spinta iniziale venuta dalle donne, dalle poche ma buone donne che facevano parte del gruppo con il supporto significativo chiaramente di quella che era la coordinatrice. Questo per dire che cosa? Per dire che da questa piccola esperienza quello che si può ricavare credo che l'importanza di esserci, insomma, che se le donne ci sono, sono un gruppo, per quanto piccolo, però almeno non sono da sole, sono un gruppo, fanno un gruppo, riescono a portare delle istanze comuni in un contesto anche misto, che non è necessariamente un contesto ostile, però di sicuro è un contesto di persone che se tu non ti porti un'istanza specifica portata con uno sguardo di genere, allora conviene in mente di portarla, forse è giusto così, penso che sia anche una cosa abbastanza scontata. Il risultato, i gruppi hanno lavorato circa un mese e mezzo e alla fine ogni gruppo ha portato dei documenti che hanno sintetizzato questo lavoro. Tra i documenti del gruppo Economia è stata costruita questa scheda, donne e uomini con un sguardo differente sulla città. L'importanza del titolo, l'importanza del contenuto l'ha ben riassunta Mario Lucini. Vi leggo giusto un pezzettino, molti di voi probabilmente l'hanno letto sul programma, però secondo me è molto significativo che sia stato portato e scritto all'interno del programma, perché se è vero che il programma tanti lo definiscono una specie di libro dei sogni, però il fatto che sia stato formalizzato è il primo passo poi per portare la concretizzazione di questa che è la premessa. La premessa si afferma, si dice, le differenze personali, familiari, sociali, lavorative ed economiche che caratterizzano uomini e donne impongono di non sottovalutare il fatto che le decisioni politiche hanno su di loro un impatto diverso. Le scelte effettuate con questa consapevolezza avranno conseguenze positive non solo sulle donne, ma sul benessere collettivo, perché una città che ascolta i bisogni delle donne è una città vivibile e accogliente, in cui tutti i cittadini, donne e uomini, possono trovare un equilibrio tra il tempo di lavoro, il tempo della cura, il tempo della famiglia, il tempo delle relazioni, il tempo per sé. Questa premessa è stata, introduce quelli che sono gli interventi, quindi le linee programmatiche che la coalizione di centrosinistra ha condiviso e che andrà a concretizzare nel momento in cui Mario Lucini diventerà sindaco. La prima cosa è l'introduzione del bilancio di genere, che credo che sia la cosa più innovativa, insomma, questa analisi del bilancio, del diverso impatto delle politiche attuate in base al genere, credo che sia la cosa più innovativa. Poi c'è un punto sulla valorizzazione delle donne all'interno dell'amministrazione comunale, che è molto importante, perché se noi pensiamo che il comune di Como non ha nemmeno ottemperato in questi anni all'obbligo di legge di redigere i piani triennali di azioni positive, l'attenzione per la valorizzazione delle competenze all'interno è stata assolutamente nulla, ci immaginiamo cosa può essere quella fatta all'esterno. C'è un impegno, perché Lucini forse non l'ha letto, l'impegno a favorire una presenza significativa di donne negli organi di decisione politica, nelle posizioni di vertice dell'amministrazione e nei consigli di amministrazione delle partecipate, in cui attualmente non siede nessuna donna nei consigli di amministrazione partecipate al Comune di Como. Infine l'impegno a realizzare politiche di genere e degli orari della città che facilitino la conciliazione. Questi sono i quattro punti contenuti in questa scheda. Poi sulle donne ci sono degli altri punti un po' disseminati nel programma, perché anche il gruppo sul welfare ha fatto un ragionamento in questo senso, quindi c'è nella scheda Como città delle persone, si parla di ampliamento della rete dei servizi di cura, si parla di sperimentazione di modelli nuovi di collaborazione pubblico-privato, di sostegno alle pratiche di welfare aziendale e di sostegno alle attività delle associazioni femminili centri di violenza. Quindi il programma direi che è riuscito a coprire tutta tutta quella che può essere l'area di interesse delle politiche femminili sulla città. È interessante notare il risultato assolutamente meritevole di questi gruppi, di questo lavoro sul programma, se pensiamo che nella scorsa tornata elettorale il programma del centro-sinistra, non so su quante pagine fosse, credo una trentina, le donne citavano quattro righe, c'erano quattro righe sulle donne con due cosine scritte. Quindi vuol dire che questa partecipazione di donne all'interno dei gruppi che si sono impegnate in prima persona, che hanno portato lo sguardo di genere, quindi non donne e basta, donne con una consapevolezza portata all'interno di un lavoro collettivo, hanno fatto sicuramente la differenza. Questa è sicuramente una cosa da sottolineare. Concludo dicendo che questo del programma è sicuramente solo il primo passo, cioè il programma è stato scritto, i punti ci sono, gli impegni ci sono, per portarli avanti sono necessarie delle donne che sempre con questo sguardo, sempre con questa consapevolezza, sempre con questa voglia, vadano, si siedano nelle banche del Consiglio e possibilmente anche in quelle della Giunta e si impegnino a portarli avanti. Quindi l'impegno in questo caso è doppio. Siccome sappiamo che le donne tendono a non essere votate, purtroppo, perché l'abbiamo visto, io concluderei l'intervento con un appello alle presenti per fare una politica, una campagna elettorale incentrata sulla possibilità di dare una preferenza ad una donna, non un voto donna generico, però nella lista di centrosinistra, se non vado errato, nelle liste complessivamente ci sono 56 donne, a occhio, una cinquantina, una donna che vi piace, che vi sentite di sostenere, ci può essere, non può non esserci, insomma, per cui sostenete le donne, fate una campagna per le donne, a cascata 56. Una campagna per le donne, perché devono essere le donne le prime a votare le donne, altrimenti non si arriva. L'ultimo appello è quello della democrazia paritaria, siccome abbiamo sentito il candidato sindaco che ha detto sì, un impegno fino a un certo punto, diciamo che questo impegno alla democrazia paritaria viene anche da una campagna a livello nazionale che è portata avanti dall'ANCI e dal Ministero per il Dipartimento per le Pari Opportunità, che così come hanno fatto l'anno scorso, anche quest'anno hanno pubblicato sul sito una lettera, un appello per una campagna a favore della democrazia paritaria nei comuni italiani, che chiedendo ai candidati sindaci di sottoscrivere questo impegno a inserire le donne nelle giunte, che penso che sia una cosa che come donne del centro-sinistra potrebbe essere interessante sottoporre al nostro candidato sindaco per concretizzare un impegno in modo un po' più forte. Bene, io vi ringrazio Chiara e molto dico sulle sue ultime battute. Ero fuori con tanto su quelle che avevo al lavoro. Ti avevo individuato, Pia Punici è anche lei lista, una lista che al momento non è nel raggruppamento centro-sinistra, però sicuramente il suo cuore parte di qua, giusto? E quindi vuol dire che questo allargamento alle donne candidate è ancora più esteso. Scusate, io ora riprendendo appunto la linea del programma, vi darei la parola a Francesca Zajci per parlare del suo libro, anche parlando del suo libro alla luce appunto dei dati e delle cose che ha ascoltato su questa situazione di partecipazione delle donne alle elezioni amministrative a Como. E poi vi ricordo che abbiamo previsto un intervento di una donna per ognuna delle 5 liste della coalizione per il loro commento e poi per sentire voi. Grazie, devo dire che è stato interessante, piacevole, mi sembra che il vostro candidato sindaco si ponga bene poi disabilità, o comunque quello che si è rivelata una forza quando in campagna elettorale ci sono stati alcuni momenti invece in cui questa porta gentile era stata messa in discussione in quanto sembrava che non esprimesse o potesse non esprimere una sufficiente autorevolezza. Quindi, bene. Ma dunque, io volevo riagganciarmi ad alcune questioni, in parte trattate del libro e in parte no. La prima riguarda il dato che avevo chiamato all'inizio, cioè che le elettrici potenziali rappresentano il 53% dell'elettorato. E il problema in realtà con cui ci confrontiamo in Italia, ma non solo in Italia, è quello dell'astensionismo femminile. E fra l'altro è forse anche, come dire, una curiosità, ma questo non è un dato, come dire, che è sempre stato così, un dato storico, perché nelle prime elezioni dopo l'avvento della Repubblica, diciamo almeno sostanzialmente fino alla fine degli anni 60, in realtà non c'era questo fenomeno, non era così, come dire, così marcato la differenza di partecipazione al voto da parte delle donne e dei uomini. È un fenomeno che poi si è sviluppato velocemente nel corso degli anni successivi, diciamo alla fase che possiamo anche forse identificare come una fase di emancipazione, di sviluppo del movimento delle donne, ma anche di affermazione crescente di un certo modo di fare politica che poi è combinato con la crisi dell'inizio degli anni 90, diciamo Tangentopoli e la crisi della cosiddetta prima Repubblica, che ha proprio visto come un salto. Noi nel libro appunto riportiamo un po' i dati da questo punto di vista, proprio un salto, nel senso verso il basso, di partecipazione. Un elemento, come dire, forse anche interessante, che se questi dati, va detto, sono dei dati che presentano un grado di affidabilità e di analiticità assolutamente insufficiente a fare un ragionamento compiuto sul rapporto tra donne e partecipazione politica. Perché, per esempio, per quanto riguarda anche il voto, sì, noi sappiamo appunto quante votano, abbiamo un dato sull'astensionismo, ma per esempio ovviamente non sappiamo come votano, come hanno votato, per fortuna. Però dal punto di vista, come dire, di uno studio, noi possiamo basarci esclusivamente su dati di sondaggio pre-elettorale oppure post-elettorale. Ci sono alcuni, c'è in particolare l'Istituto Cattaneo di Bologna che lavora molto seriamente su questi, che quindi ha fatto alcune rielaborazioni, tenendo presente le donne e gli uomini, però, come dire, non abbiamo una grande ricchezza di informazioni. E anche sulla partecipazione attiva, cioè quindi quello che vuol dire la partecipazione delle manifestazioni, dei convegni, o per esempio anche l'ascolto dei programmi televisivi. Ci sono una serie di dati, ma rispetto, diciamo, a essere donna o uomo, non c'è granché, ed è comunque molto complicato analizzarli. Quindi ci sono delle riflessioni, i dati sono degli spunti. La questione dell'astensionismo è che, quello che voglio sottolineare, probabilmente lo sapete già, è che in realtà le donne di gran lunga esistono considerazioni sono in parte anche comprensibili, legato molte volte alla, alle condizioni di salute, a livello come dire, di scarsa autonomia, ma spessissimo nella composizione sociodemografica italiana anche a livello di scolarizzazione. E non c'è dubbio che tanto più il titolo di studio è basso, guardate che in Italia noi abbiamo una percentuale ancora circa del 10% di donne che sono analfabete, ovviamente quelle più anziane, e tanto più il titolo di studio è basso, tanto più è alto il livello di astensione e il disinteresse, la lontananza dalla politica. Quindi c'è, come dire, una componente che obiettivamente è difficile da recuperare. Quindi bisogna lavorare soprattutto sulle, come dire, sulle classi di età centrale, con titoli di studio più elevati, quindi come dire, con un livello culturale tale da poter come dire, comprendere il senso di quanto la politica può essere importante per la qualità della vita di ognuna di loro, e poi anche della famiglia e della collettività. E poi c'è, come dire, uno spunto qui molto scivoloso, che è quello dei, diciamo, dei giovani e delle giovani. Allora, ovviamente noi sappiamo che i giovani esprimono, poi non esprimono una lontananza dalla politica, ma sicuramente dalla politica istituzionale, io la definirei così, e lo si vede da tutti i dati. Pur tuttavia, se noi andiamo a guardare una rilevazione svolta dall'Istat un paio di anni fa sulla, proprio sulla partecipazione politica, noi vediamo che pur, come dire, in una bassa partecipazione, però in generale le donne nel corso del 2000, cioè quindi diciamo dall'inizio di questo nuovo secolo, negli ultimi 10 anni, hanno mostrato uno spostamento verso un minore disinteresse, non oserei chiamare disinteresse, ma un minore disinteresse che le ha, come dire, un po' avvicinate al livello degli uomini. Voglio dire questo, gli uomini continuano a essere mediamente più interessati alla politica, ne parlano di più, chiacchierano, guardano i programmi della televisione, eccetera, eccetera, di più delle donne, d'accordo? Però in 10 anni gli uomini sono rimasti lì e anzi hanno un pochino diminuito il loro interesse. Le donne complessivamente invece hanno incrementato il loro interesse. Allora, parliamo sempre di piccoli numeri, però io come ricercatrice ho sempre ritenuto che è importante rilevare, come dire, i trend, anche se sono dei piccoli trend, perché noi dobbiamo andare incontro a ciò che come dire, segnala dei cambiamenti. E quindi e in questo, come dire, mondo femminile in movimento, ma poi noi lo vediamo, no? Potremmo dire che certo, poi come dire, ci sono tanti altri, sono le argentine, cioè, però è un mondo femminile che ha, come dire, ha una componente in movimento. Le giovani, e in particolare le giovani studentesse, sono, come dire, mostrano una certa proattività e quindi positività. E d'altra parte, se noi ancora andiamo a guardare la partecipazione ai referendum e anche i dati che riguardano le indagini sempre sui temi, diciamo, ambientalisti o comunque legati all'interesse pubblico, al bene comune, vediamo che c'è una maggiore attenzione e sensibilità da parte delle donne piuttosto che degli uomini. Allora, questa non è direttamente, questi sono dei dati, non è direttamente politica e non è direttamente partecipazione politica, però credo che appunto oggi e domani si debba proprio anche un po' fare uno sforzo di risintonizzarci con il cambiamento di sensibilità anche nel popolo, delle donne. Non, non dobbiamo rimanere aggrappati ad uno schema tradizionale di politica. Poi è chiaro che non è facile, perché noi ci confrontiamo ancora con quella cosa lì, cioè come dire, la politica poi è quella roba lì, è quella che si fa nelle istituzioni. Quindi è come, come dire, giocare nello stesso campo con due palle che come dire, che si scontrano tra di loro, quindi è un bel esercizio, è un bel esercizio. E però io ho sempre pensato, anche qui nella pratica è molto più difficile realizzare, che è fondamentale, come dire, capire un po' che cosa sta succedendo, avere l'idea che stanno succedendo delle cose, poi gli strumenti per cambiare, e cambiare davvero, se fosse facile dall'altra parte non sarei proprio da qua. Il senso civico, che i giovani se insegnano alla scuola e adesso non insegnano più. Ma anche fra le altre cose, certamente può esserci. Allora, noi da una parte non dobbiamo utilizzare il fatto che le donne siano così tante diverse dagli uomini, perché poi lo vediamo, però c'è anche, come dire, una oggettiva difficoltà che le donne, quando sono pochissime, hanno di sopravvivere, di confrontarsi, di rapportarsi con appunto delle regole, un modello, come si usa dire, che è quello lì. E quindi c'è un apprendimento anche da parte delle donne che non è assolutamente da, come dire, non possiamo dare per scontato, perché io ho fatto, al di là del libro, io ho fatto 5 anni all'opposizione in consiglio comunale a Milano e non mi sono ricandidata perché ho ritenuto che avendo fatto quell'esperienza e quindi comunque avendo imparato alcune cose, personalmente non mi piaceva, ma questo, come dire, ci sono state donne che invece si sono ricandidate, quindi diventano poi anche delle scelte, ma anche ho pensato che per il lavoro che faccio, per il mio mestiere, da quello che avevo capito avrei forse potuto essere più utile, come dire, un po' più come battitore libero, come battitrice libera, con diciamo la coroncina dell'università sulla testa, perché mentre ero in consiglio comunale il mio ruolo professionale era praticamente sparito, ma per colpa di chi, per esempio? Molto per colpa anche dei media, moltissimo per colpa di chi costruisce l'informazione. Per cui automaticamente io mi sono trovata a non sapere più cosa ero, perché non ero più una ricercatrice, una sociologa, perché in quel ruolo soprattutto io occupandomi ancora molto, diciamo, come temi della città, avrei espresso una posizione, diciamo, di partito, ma non ero neanche una politica, perché non era quello il mio mestiere, non era quello, come dire, il mio futuro. Però è stato molto importante, guardate, fondamentale quella esperienza, fondamentale perché solo dentro, come dire, la macchina, si capiscono come dire, gli aspetti di non funzionamento, di iniquità, tutti i limiti e le carenze del fare politica. Non sto parlando di mala politica, proprio delle regole della politica. Cioè, all'esterno non è sufficiente, io non posso raccontare, non riesco a raccontare un vissuto, quindi è come dire, essere dentro e quindi come dire, cercare di farsi votare e di votare, di trovare il modo, è veramente fondamentale, ma anche per contribuire un po' a cambiare l'agenda. È complicato, è molto complicato, perché l'agenda è dettata sempre di più dalle emergenze. Questo come dire, lo vediamo quotidianamente, però è chiaro che io non ho dubbi su questo, quante più donne ci sono, pur nella difficoltà, nella coesione, di trovare degli accordi, E però, come dire, diventa inevitabile favorire un accordo su alcuni temi piuttosto che altri. E quindi credo che un messaggio che bisogna cercare di dare alla cittadinanza è che il voto alla donna e ad una donna è un voto per la città. Ecco, secondo questo è il messaggio del vostro programma. Ma bisogna come dire esprimerlo in modo anche molto semplice alle persone, cioè il voto a una donna significa non solo queste cose della buona politica, ma proprio come dire portare all'attenzione della politica quei temi che possono migliorare la qualità della vita di tutti. Donne, uomini, famiglie, bambini, anziani, facilissimi da mantenere in minoranza, eh. Grazie. Io prendo gli spunti di carattere elettorale, le giovani che hanno una maggiore propensione, quindi ci sono tantissime insegnanti tra di noi, coltivate molto i rapporti con le giovani generazioni. Però anche il voto sull'ampiezza e sulla distanza delle donne, diciamo, over 60, che secondo me a Como hanno una presenza ancora superiore rispetto alla media, essendo una città con una struttura di popolazione anziana. Io credo di ricordare che circa il 37% degli abitanti abbia più di 60 anni. E quindi la percentuale, se la calcoliamo sui votanti, è ancora più alta. E non solo nel caso di Como delle donne con un basso livello di istruzione, nel senso che non è l'età. Quindi credo che questa sia una fascia di popolazione che debba essere curata con attenzione e possa essere aiutata anche per le tante iniziative che sto guardando Maria Brosoli rivolta a questa università popolare, eccetera. L'attenzione che per queste fasce c'è è importante che vadano a votare massicciamente. Che vanno a votare in certe direzioni, perché certo. La fascia di età è... Se vanno a votare dopo. Poi in realtà... Devo dire che l'esperienza che abbiamo visto nelle primarie, cioè, poi i guai che vanno centro-destra come sono tali che appunto il buon senso delle donne. Scusate, adesso io do la parola alle 5. Se prego. Se posso, siccome non posso fermarmi fino alla fine, volevo fare una domanda, se posso, se no ovviamente me la tengo. Se le 5 candidate che sono, certo. Perché mi pare che a Milano la Commissione pari opportunità del Comune di Milano sia, abbia come presidente Anita Sordo, che oltre a essere una cara amica è anche un'espressione del movimento delle donne. Ecco, ti volevo chiedere se questa cosa ti ha aiutato in qualche modo nella solitudine nel quale tu dicevi a volte che ti sei ritrovata, se questo fatto invece ti ha dato qualche possibilità di più. Diciamo in alcuni casi sì, in altri meno, nel senso che obiettivamente con quello che dicevo all'inizio, cioè che ci sono delle ruoli che non sono chiarissimi, e a me in realtà la commissione consigliare ha un ruolo molto chiaro in teoria, poi ognuno e ogni presidente si muove come dire come crede. Peraltro qui c'è questa un'ulteriore ambiguità, che lei, la Anita, si trova una commissione senza un assessore di riferimento, e quindi insomma perché io non sono un assessore, per cui ci sono un po' delle situazioni non facilissime da gestire anche proprio dal punto di vista dei confini. Quindi quello che abbiamo in realtà cercato di fare, qualche volta è stato più facile, altre volte però complessivamente diverso, è di delineare un po' dei percorsi. Cioè è chiaro che su alcune tematiche come quello dei diritti se ne occupa solo lei, peraltro nella commissione c'è anche Marisa D'Amico che è la commissione, cioè, mentre io non me ne occupo affatto, anche quando loro mi invitano, però non prendo l'iniziativa. E invece io cerco di prendere, diciamo, l'iniziativa su alcune tematiche di tipo culturale e poi seguendo anche che un po' la io ascolto, vado o faccio incontro e cerco di prefigurare poi dei percorsi man mano, o come prendo sul tema della criticità sessista. Avevo iniziato a organizzare, a vedermi, però che lì è molto complicato perché non è chiarissimo poi un comune cosa può fare. E quindi cioè non è semplice. Io mi muovo come seguendo un po' le richieste, oltre che alcune. Io ho organizzato un seminario sul tema della libertà delle donne, per esempio l'8 marzo, come dire, me ne sono fatta carico io, mentre c'è un momento di partecipazione delle donne su alcuni temi, lavoro, salute, che era stato, come dire, lanciato già a settembre, prima ancora che mi si nominata da Anita, e quindi quello, come dire, lei, che io ovviamente gli amiamo, baci, però ecco, c'è anche proprio almeno da parte una certa lucidamente un tentativo di non sovrapporci, perché in realtà il rischio di sovrapporci è c'è. Ascolteremo nuovamente Francesca quando avete vinto le elezioni, dovremo affrontare il problema. Io ho molto invito di fermarvi il più possibile fino alla fine in modo di ascoltare tutte, e alle 5 rappresentanti, se riescono a stare nel giro dei 5 minuti, in modo che appunto ascoltiamo tutte con pari attenzione. Rigorosamente ordine alfabetico, Andrea Cesario, Partito Democratico, è giovanissima e quindi... Sto superando i 25, quindi sto superando i 45. Innanzitutto grazie, perché questo evento è stato esteso comunque tutta la coalizione, dandoci l'opportunità di sentire Francesca oggi come migliore e di portare comunque il nostro piccolo vissuto in quest'ambito. Personalmente vorrei innanzitutto sottolineare l'importanza del nostro programma, cioè il programma della nostra coalizione, che come ha detto prima Chiara, in più punti tocca la questione femminile, riporta in primo piano comunque la donna, le donne. E vorrei sottolineare, dato che lo sappiamo comunque bene, sono in molte, che il programma stesso è stato in questo senso strutturato anche grazie ad un documento che è stato stilato dalla conferenza delle donne del Bilo lo scorso anno, che infatti l'ha inviato proprio alla coordinatrice Gisella del tavolo economia, e di fatti alcune proposte di quelle che sono state prima elencate le avevamo già anticipate la proposta anche noi all'interno del Bilo. Quindi il bilancio di genere, il bilancio sociale fanno la parte di tutto il programma del centro-sinistra. Vorrei portare giusto un aneddoto per far capire che effettivamente il problema dei numeri, della quantità delle donne presenti nelle liste, non riguarda soltanto un problema generale, perché questo pomeriggio mi sono trovata a fare un elenco e un appunto delle candidate nelle liste di Cantù, e purtroppo, cioè effettivamente, gli unici che hanno portato un buon numero di candidati sono stati quelli del centro-sinistra, quindi il padrone. Cioè, di Zotto, giusto per fare un nome a caso, a fronte di 141 candidati ha messo 16 donne, cioè quindi una percentuale bassissima, quindi effettivamente cioè, è una tematica che viene portata avanti soprattutto dal centro-sinistra, questo assolutamente. Parlando di dove batte il cuore delle donne, mi viene da fare un collegamento al dia dei sentimenti, in questo senso vorrei un po' dire quello che mi sta spingendo adesso personalmente a candidarmi. Un po' penso anche quello che sia l'idea un po' più generale di sentimento applicato anche alla politica, quindi un sentimento e un'idea di coinvolgimento, quindi fare iniziare anche solo la campagna elettorale, per dire, un po' come idea di gruppo, come idea di coinvolgimento dei propri cari, dei propri amici, delle proprie cerchie di amicizie, che ti possa accompagnare e portare in politica, quindi ad essere eletta, ok? Ma soprattutto che questa idea di coinvolgimento, secondo me, è quella che poi caratterizza le donne anche dopo, nel senso che io non sono là dentro in Parlamento, in consiglio regionale, in consiglio comunale, provinciale da sola. Io ci sono, ma sono molto fare. E questo penso che già sia comunque una netta differenza, una grande differenza fra le donne e gli uomini. Questa cosa qua è da valutare subito. Cioè, è da, sempre da portare avanti nel momento in cui si vanno a terra a cimolare voti. Cioè, effettivamente. E vorrei giusto fare una battuta così chiudendo l'intervento. Prima Francesca diceva che i giovani hanno cominciato, cioè i giovani, le donne, hanno cominciato ad interessarsi di più alla politica dall'inizio del nuovo secolo. A mo' di battuta mi viene da pensare che è più o meno dal G8 di Genova, più o meno. Nel senso che io stessa, cioè nel momento in cui mi sono trovata scottata da qualcosa che politicamente ha toccato l'Italia, toccando me stessa, ho detto ok, basta, cioè non mi posso neanche sottrarre, non ci posso non pensare, quindi forse è proprio anche l'idea dell'indifferenza che tante volte porta le donne, ma anche le giovani generazioni in questo caso ad allontanarsi, a non votare, a fregarsi proprio, cioè a dire facciamo sì che decidano gli altri, in questo momento non mi interessa. Quindi è il sentirsi parte anche in questo caso dei problemi sociali che porta le donne, che porta i giovani, che porta in generale la popolazione a votare. Quindi è questo soprattutto che si deve trasmettere alle persone nel momento in cui, come adesso, si sta andando al rinnovo di una comune. Cioè è al far sentire parte dei problemi, oltre che chiaramente altre cose che non vengono. È proprio far sentire parte le persone di questo. In ogni caso c'è il massimo impegno da parte di tutte a far sì che le donne ne facciano campagna, le donne, ma in ogni caso la strada è ancora purtroppo un po' lunga, effettivamente, in ogni caso ci spero forse anche per la giovanità. Oh, candidata nella lista Pacco Sell. Grazie di nuovo per aver scritto questo libro a tutte quante noi, e la nostra forza è proprio quella di stare insieme. Infatti la cosa da cui vorrei partire è che noi dobbiamo sicuramente far studiare il nostro candidato sindaco e sottoporgli anche delle cose da firmare, degli impegni da prendere, ma prima di tutto dobbiamo prendere un impegno tra noi, e l'impegno tra noi è quello che chiunque di noi sarà eletta terrà conto e rappresenterà anche le altre candidate, ma soprattutto le altre donne che ci avranno votato. Quindi l'impegno è un impegno a continuare dopo il 6-7 maggio e dopo il ballottaggio, se dovrà esserci un ballottaggio, a continuare a stare insieme tra differenti, sapendo che abbiamo delle differenze anche tra di noi, ma delle differenze che noi dobbiamo saper far convivere senza arrivare a conflitti distruttivi. E allora, mentre Andrea è stata brevissima e brevissima, io vi prego di darmi le coordinate, perché chi mi conosce sa che una delle pratiche politiche che tengo di più è quella del silenzio. Io faccio parte di una rete internazionale di donne contro le guerre che ha scelto come modalità di manifestare un'ora di silenzio. E però quando finalmente ho la parola devo dire che sono incontenibile, quindi vi prego date un minuto prima del tempo scaduto, così dico l'ultima cosa sul tempo morto. E appunto perché stiamo parlando del silenzio e della parola, io voglio dirlo perché ci tengo molto. Io sono tra quelle donne che ho vissuto un po' male il non usciamo dal silenzio, perché io non sono mai stata zitta, ci tengo a dirlo, perché non sono stata zitta individualmente e collettivamente insieme alle mie amiche. Faccio politica da quando ho 14 anni, adesso ne ho 58, ed è la prima volta che accetto la candidatura alle elezioni comunali, proprio perché il mio fare politica è stato sempre un far politica nella polis, quella che per me è la politica con la P maiuscola, non quella che viene di solito considerata la politica con la P maiuscola, che è quella del palazzo. Per cui la prima volta che accetto, che accetto questa, diciamo questa sfida, e la sfida per me è quella di riuscire a portare la passione che caratterizza e ha caratterizzato me e i gruppi, quelli con cui faccio l'attività politica quotidiana, che sono sicuramente molti gruppi di donne, tra cui anche l'IFE, l'Iniziativa Femminista Europea, la Marcia delle Donne contro le Guerre e le Violenze di Povertà, Donne Nero, ma anche molti gruppi misti, Quindi quella passione che le donne portano in tutti i luoghi in cui fanno politica, riuscire a portarla dentro il palazzo, perché anche a Como ci sono molte persone che si sono allontanate dalla politica, e molte donne che si sono allontanate dalla politica del palazzo perché la sentivano distante, anche perché la politica del palazzo si è sfacciatamente disinteressata della polis negli ultimi anni. Questo, ahimè, bisogna dirlo, l'abbiamo avuto molte giunte di centrodestra, e questa separatezza si è ulteriormente aggravata perché, come dire, il centrodestra sicuramente non ha tenuto conto minimamente di quello che succede in città. Però siccome vorrei che questa passione entrasse anche nel palazzo, la sfida è quella di tenere insieme queste due modalità, la forma del far politica come sono abituata a farla finora, con la necessaria istituzionalizzazione, diciamo, le modalità più formali. A chi chiedo in qualche modo di votare donna? Lo chiedo a tutti, lo chiedo agli uomini e alle donne, ma lo chiedo soprattutto alle donne e alle giovani donne, alle ragazze, perché vedo che è da parte loro che c'è questo desiderio di reinventare il mondo e reinventare anche il mondo della politica con la P maiuscola, non soltanto reinventare il mondo della nostra vita quotidiana. Quindi ricostruire questa polis, ma ricostruirla in uno spazio pubblico in cui stare pubblicamente, e fare in qualche modo della democrazia e della nostra partecipazione effettiva, non soltanto del nostro ascolto, una questione esistenziale. Cioè vorrei che in questi spazi pubblici riuscissimo a starci pubblicamente e a starci in modo felice, come le donne cerchiamo di stare dappertutto. Allora, siccome siamo alla fine, voglio dire che dirlo esplicitamente che come giustamente ha detto Francesca Zaiccio, ci si è poi ripreso molte volte, non basta essere donne per avere uno sguardo di genere. Io lo dico, lo dichiaro qui a Como, sono due candidate sindaco e io non le voterò, voterò un uomo, perché le alleanze che voglio fare sono con le donne che possono portare avanti le stesse istanze, quelle che vanno nella mia stessa direzione, non tutte quante le donne. Per capire che non tutte le donne sono uguali, basta pensare che la Santanchè è una donna, e la Santanchè qualche giorno fa ha osato dire che Nilde Iotti e Nicole Minetti sono uguali. Quindi non tutte le donne mi rappresentano, e quando non ci sono donne che mi rappresentano è evidente che scelgo di votare un sindaco uomo. Viceversa, invito tutti quanti voi a votare per una donna, perché ci sono tante donne candidate in tutte le liste. E per chiudere con una cosa come dire leggera, vorrei concludere con un omaggio alle donne e alle donne delle canzoni di un uomo, alle donne di Fabrizio De André, quelle che Faber cantava in tutte quante le sue canzoni. Vorrei in comune tante donne, e vorrei in comune tante donne come Bocca di Rosa. C'è chi la politica la fa per noia, chi se la sceglie per professione, Bocca di Rosa nell'uno nell'altro, lei la fa per passione. Grazie Celeste, adesso siamo stati tutti felicissimi che tu Gruppo Civica, Valeria è stata anche parte attiva del gruppo bilancio, partecipazione, economia, quante altre ne avevamo. Io la ringrazio in modo particolare perché soprattutto lei ha portato l'attenzione sul tema delle smart city, le città intelligenti, e poi è diventata una delle centrali che credo sia una cosa importante per una diversa qualità di vita. Valeria. Buonasera a tutti, sarò brevissima, considerando che le tante idee che sono state proposte e anche spunti che la Sinfagia ci ha dato questa sera. Mi piace partire riprendendo proprio il libro, e c'è una frase di speranza sull'impegno delle donne, e dice: laddove le donne trovano produttivo per le proprie capacità impegnarsi nello spazio pubblico, laddove la politica raccoglie ed emende il difetto del monopolio maschile e sembra intenzionata ad intercettare i bisogni reali della comunità, le donne non fanno mancare la propria presenza e il proprio investimento. Quindi quando ne vale la pena, le donne ci sono. Come ci sono? Ma ci devono essere in modo intelligente, devono essere presenti in modo anche fattivo. Quindi quello che io chiedo a tutte le donne qui come candidate, ma anche quelle che voteranno, è quello di avere un approccio intelligente e innovativo nel gestire i propri talenti. Donne sanno, e tutti sappiamo, di avere talenti particolari e peculiari, che sono la sensibilità, la capacità organizzativa, la capacità di essere versatili. Ecco, queste sono delle caratteristiche eccezionali che, se ben gestite, possono essere messe a servizio di tutti. Quindi, in un approccio di città intelligente, la cosa importante è che la nostra intelligenza, prima di tutto, venga fuori e venga messa al servizio degli altri. Poi questa visione, una comunità futuristica, ma di un futuro che è già qui, certo ha bisogno di tutta una serie di strumenti che però non sono stati risolti, per esempio la disponibilità su tutto il tema del welfare, o il fatto ad esempio di poter mettere in rete anche a livello virtuale le varie associazioni che possono sostenere l'attività e facilitare l'impegno delle donne nella vita quotidiana. Questo è un fatto che scatena l'intelligenza delle donne e che ci permette anche poi di avere un po' più di tempo da dedicare alla società, da dedicare al livello professionale, alla stessa ricerca. Quindi quello che conta in questo approccio è davvero capire come mettere a sistema delle risorse che già ci sono per liberarci del tempo che ci consente di metterlo, di metterci a servizio degli altri. Questo è un po' l'aspetto secondo me centrale di questa di questo impegno che deve essere nostro a partire da oggi, perché non possiamo lasciare che siano gli altri a risolvere i nostri problemi, siamo capaci noi di farlo, non siamo capaci di una sensibilità particolare. Quindi questo è un po' l'auspicio che trae spunto dall'impostazione che Sandro Zajcic ci ha dato sul libro per la ragazza. Italia dei valori. Sì, buonasera, mi chiamo Letizia Romano, ho 43 anni, faccio parte dell'Italia dei valori da più di 10 anni, quindi personalmente ho un trascorso di difficoltà all'interno di una realtà politica, nonostante appunto io sia sposata da 13 anni, abbia due figli, insomma, però questa è tutta un'altra storia, volevo porre l'accento su un altro problema. Su uno spaccato di vita della donna comasca nel quotidiano. E oggi in particolare una signora mi ha consegnato una lettera, una signora che fa parte di un gruppo di famiglie che si sono battute per far sì che un importante asilo nido qui a Como non venisse chiuso. Un episodio insomma di un paio di mesi fa, ecco, dove si è battuto anche il candidato sindaco Lucio e molte altre forze, e quindi insomma volevo leggervi questa lettera, insomma. Allora, siamo un gruppo di genitori di bambini che frequentano gli asili nido di Como, pertanto siamo coscienti dell'importanza che questi servizi rivestono, in primo luogo per i nostri figli. Sono infatti luoghi di socializzazione, fulcro di esperienze, per nessun motivo possono essere considerati dei semplici parcheggi. Non meno importanti sono queste strutture per le famiglie. Permettono infatti a noi genitori di svolgere il nostro lavoro serenamente, sapendo che i nostri bambini stanno trascorrendo un tempo di qualità, in un luogo protetto e con persone educativamente più che valide. Ciò premesso, siamo assolutamente consapevoli della necessità per un comune di razionalizzare le spese, ma riteniamo che il mantenimento dei nidi comunali e, come conseguenza, la gestione dei nostri bambini non possano rientrare in una logica di mero calcolo economico. Queste strutture rappresentano una ricchezza e una grossa opportunità per i quartieri e i comuni che li ospitano. Abbiamo apprezzato l'attenzione che è stata posta al momento dell'inserimento dei nostri figli nelle sezioni nido, un'attenzione consapevole e rimarcata anche dalle numerose domande sull'argomento presenti nel questionario di gradimento. A fronte di tanta attenzione ci chiediamo come si possa pensare di chiudere un asilo nido e trasferire, come se si trattasse di pacchetti, i bambini in altre strutture, senza tener conto che così facendo perderebbero improvvisamente persone e luoghi familiari e che per loro rappresentano una calda sicurezza. Per tutti i motivi sopra esposti esprimiamo tutta la nostra preoccupazione e i nostri dubbi sulla necessità di chiudere alcuni asili nido della città, così come si è paventato nei mesi scorsi per l'asilo nido, per esempio, di Lora. Nello specifico chiediamo quali siano le vostre intenzioni o progetti riguardo al futuro di questo asilo e se è nel vostro progetto politico investire su questa struttura e su altre del territorio. Sicuramente condividiamo la necessità di eliminare gli sprechi e razionalizzare le spese, ma crediamo che uno sguardo più attento alla nostra realtà potrà indicare meglio quali tagli porre in essere, consapevoli che il presente e il futuro dei nostri figli non possono essere considerati un investimento a perdere. Confidiamo in una vostra risposta e porgiamo quindi ai saluti. Ecco, questa praticamente era indirizzata al comune di Como, no, nella figura del sindaco, e comunque a tutti i candidati sindaco delle varie liste e capilista delle liste. Niente, praticamente questa è una situazione che è stata seguita, come dicevo, anche dal candidato sindaco Lucini. E prima che appunto iniziassimo appunto il nostro pomeriggio, avevo esposto questa lettera che mi hanno appena consegnato e ho chiesto: allora, insomma, la situazione è proprio molto vaga, non c'è nulla di certo, risposta, vediamo dai bilanci. Già questa cosa mi ha fatto un po' gelare il sangue, perché insomma credo che la situazione degli asili nido in particolare sia una situazione molto delicata, perché c'è difficoltà innanzitutto nell'iscrizione del proprio figlio, perché se entrambi i genitori, se uno dei due genitori non lavora, non ha più la precedenza e scende di graduatoria nell'inserimento del proprio figlio, quindi questo è già un problema. Magari per le donne, oltretutto, che magari hanno perso lavoro a causa della maternità, è diventato prima un danno e poi successivamente un problema, perché non riescono a inserire il proprio figlio e quindi non hanno neanche la possibilità di cercare un lavoro. Quindi allora, è la realtà degli asili nido, ma posso parlare anche delle scuole elementari, dove comunque nei mesi estivi i genitori non sanno dove lasciare i propri figli, da giugno ad agosto non si sa dove lasciare i figli, chi è fortunato lo lascia i nonni, chi invece opta per il va benissimo, però non dura tutta l'estate. Insomma, ci sono veramente c'è una mancanza di strutture devono coadiuvare, insomma, quelli che sono i problemi delle famiglie, delle quotidiane, insomma, non si viene incontro alle famiglie e poi di conseguenza allora quella comunque deve subire tutti i disagi di questo caso, del caso, insomma, e poi ci sono poi tantissimi altri problemi che Como ha, parliamo anche degli anziani, noi nei banchetti ci si avvicinano gli anziani e non esagero, anche con le lacrime agli occhi, gli anziani con serie di difficoltà e serie di problemi di solitudine e anche problemi di mobilità, loro ci spiegano che non riescono a fare determinati esami, non riescono a spostarsi a Sant'Anna perché alcuni esami devono fare a Sant'Anna, non hanno prima, non riescono a muoversi. E allora anche lì la donna, magari al padre, la madre anziana, ottantenne, deve seguirli, insomma la donna è sempre caricata da tutti questi fardelli e combattere la rete sociale, perché è proprio un... è proprio, secondo me, la vergogna della città, perché la città, da come, dallo suo punto di vista, è semplicemente apparenza in, diciamo, finanziamenti, e tutte le risorse vengono destinate all'immagine e alle persone comuni, della vita civile, eccetera, non ricevono nulla, se non la differenza, insomma, da parte della nostra bella città. Tutto qui. Grazie a tutti. Credo allo stesso tempo che appunto noi avremo una situazione molto difficile, per cui dovremo fare appello al massimo della nostra intelligenza nel trovare soluzioni, perché ai problemi generali che sono della divisione del welfare, della divisione delle risorse, a Como si unisce il fatto di scelte assolutamente deleterie fatte dalle precedenti amministrazioni, a partire dal fatto di che cosa ha voluto dire costruire un ospedale fuori dalla città, che ha aggiunto altri problemi di accesso, e quindi sicuramente abbiamo di fronte una situazione difficile. In questo senso penso che la cautela di Lucini debba essere intesa non attenzione, ma proprio la consapevolezza delle difficoltà, e lì deve scattare proprio l'intelligenza delle donne, anche l'intelligenza alternativa e l'individuazione di priorità. Ida Paola Sozzani, lista La mia città, per l'ultimo intervento delle candidate. E poi chi è rimasto a fare domande? Restiamo fino a mezzanotte, ovviamente. Io ringrazio per questa bella opportunità che mi stia assegnando tra uno stile diverso delle donne rispetto all'attuale, diciamo, procedura. Mi sembra che siano venute fuori le contraddizioni di cui si è parlato da un anno e mezzo a questa parte, un po' in tutto il movimento delle donne in Italia. C'è un tema di passione, di volontà, poi c'è un tema di declinazione concreta e pratica della presenza femminile. Io penso che è una cosa positiva che in Italia si sia... Leggo un po', perché io non sono una grande parlatrice, quindi ho preferito segnarmi un po' le idee. Si è tornati a parlare della partecipazione delle donne nella politica, abbiamo sentito anche sabato, partecipando a un interessantissimo seminario della, diciamo, del movimento Signora Quando Milano, in cui la signora Zajcic e le altre esponenti hanno voluto restituire l'esperienza di queste città che stanno mettendo veramente in gioco i meccanismi politici, coinvolgendo le donne concretamente nelle amministrazioni politiche. Dicevo che si è tornati a parlare di questa esperienza. Mi sembra che quello che è uscito concretamente sia l'esigenza di riscrivere determinate regole, o comunque di imporre dei correttivi, delle proceduralità, e quindi io solleciterei anche noi tutti i gruppi che stiamo lavorando per una partecipazione concreta delle donne a darci una metodologia comune, quindi il fatto, come dice Celeste, di trovarci, di istituzionalizzare degli incontri, e io vorrei fare una proposta di istituzione di un osservatorio di tipo politico sulla partecipazione delle donne in città e anche sui settori in città. Penso che in questi anni non è mai stata fatta un'analisi. In questo senso credo che anche la signora Zajcic potrebbe, con il suo contributo e l'esperienza di ricercatore universitario, forse darci qualche impulso. Credo che il tema delle quote sia un tema che la nostra lista, come metodologia e come spunto di metodo, ha voluto individuare subito. Noi ce lo siamo detti subito, eravamo assolutamente intenzionati a fare un discorso sulle donne e sui giovani, e devo dire che la nostra lista ha centrato completamente l'obiettivo. Il tema delle quote abbiamo sentito a Milano come non è da solo, diciamo, sufficiente a riproporzionare il problema della rappresentanza, però è sicuramente necessario. Dobbiamo pretendere incentivi, secondo di scrivere regole ponendo delle penalizzazioni a tutti i gruppi, a tutti i movimenti politici, a tutte quelle dinamiche che non portano avanti il discorso della presenza delle donne e della leadership politica. Le liste devono diventare irricevibili. Allora, quasi tutti i partiti hanno nei loro statuti l'intenzione di parità. A Milano si è detto molto chiaramente che questi statuti devono essere forzati, bisogna forzare gli statuti dei partiti, perché anche la riscrittura dell'articolo 51 della Costituzione ci dà tutti gli strumenti per poter pretendere questa cosa. Non può dipendere dalla volontà di coloro che ci siedono di fianco. Noi abbiamo gli strumenti della costituzionalità e giuridici. Ci sono ricorsi in atto contro le giunte inadempienti, quindi bisogna assolutamente chiedere il diritto e sedersi a lavorare con una metodologia, secondo me. Io mi auguro solo questo, che da questo lavoro collettivo, che ha sicuramente sullo sfondo le elezioni, ma noi non ci fermeremo nel momento delle elezioni, noi vogliamo andare oltre. Mi sento solo di questo. Grazie. La presenza femminile dei CDA è 50-50 e questo è molto interessante, molto importante se consideriamo che le candidate donne sono di numero largamente inferiore agli uomini. Adesso sto un po' lavorando sui dati, comunque questo è come non dato. Quindi l'operazione di Pisapia di portare a 50-50 gli uomini potrebbero dire che è una forzata. Perché abbiamo lavorato con il tema delle leggi contro essere omosessuali e l'aborto e abbiamo seguito la vicenda della legge 120. Ci interessava capire, per esempio, da qualcuno più informato di noi, a che punto è l'intenzionalità o il regolamento parlamentare su queste partecipate pubbliche, perché si attende un regolamento dal Parlamento. No, queste le partecipate sono due cose diverse, queste sono le partecipate municipali che a Milano sono molto sono molto molto diversificate, perché vanno dalle società per azioni come ATM, Milano Ristorazione, cioè come delle aziende, ATM ha un numero, adesso non voglio poi dire di numeri, ma milioni di pasti al giorno sporca, quindi ha poi una molteplicità di partecipate piccole che magari svolgono attività culturali, ma c'è per esempio il tribunzio, cioè come dire sono molte e naturalmente come dire, le donne tendono anche questa volta a fare più domanda nell'area diciamo culturale sociale, dove ci sono per esempio gli istituti che sono molto importanti, dove ci sono tantissime donne competenti, tra l'altro il numero delle candidate è decisamente più basso ancora che in altri. Eppure tuttavia attraverso una selezione della commissione dei garanti, anzi dei saggi si chiamano, e poi un ulteriore passaggio, perché c'è una società di cacciatori di teste che ha dato la propria disponibilità a consigliare, cioè sulla base della prima lista di idoneità che è emersa dalla commissione dei garanti o detta dei saggi, il sindaco Pisapia si è anche trovato dei consigli sulla base dell'applicazione di alcuni criteri di qualità e poi la decisione ultima comunque del sindaco. Ecco, allora questo è il tema. tema che è importante secondo me anche in campagna elettorale, perché è un messaggio, come dire, concreto, fattibile e anche però simbolicamente importante, proprio perché può mettere in gioco le professionalità e gli interessi delle donne. No, no, ringrazio tantissimo, lo chiedo l'ultima cosa che volevo chiedere a Francesca, è appunto un consiglio, e un consiglio da donna, mi sembra che senza la domanda ce l'abbia trasferito, e mi fa venire in mente un'altra cosa che probabilmente dobbiamo tentare di fare, è proprio di rendere più consapevoli noi stesse delle tante donne in posizioni appunto di grande responsabilità che poi però non vengono all'attenzione, ci sono. Bisogna sollecitare a cui ricorrere, anche questa cosa dei curricula eccellenti o comunque degli elenchi appunto per una migliore conoscenza delle donne che stanno in tante posizioni, probabilmente va fatto anche a livello locale. Io non so se ci sono domande. Abbiamo un sacco di donne mediche, le ASA, le OSL, le infermiere, il potere l'abbiamo in mano noi, non siamo capaci di usarlo. Cioè è come se noi... lavora e si rapporta con le persone tutti i giorni è inevitabilmente è come dire parziale, è legata al proprio sentire, al proprio magari mondo in cui si trova a confrontarsi maggiormente, perché c'è come dire una parte in cui è più facile andare a recuperare i volti. Poi è chiaro che non è sufficiente di allargare il più possibile lo spettro di dove recuperare i volti, però insomma poi quello che si fa durante le giornate è un po' quello. Un paio di sondaggi sono stati obiettivamente utili per dare per rafforzare, bene, in questo caso come dire milanese, per rafforzare l'impressione. Poi sono state prese però nelle contene, sono state adottate delle strategie in assoluta autonomia, se posso dire per esempio la strategia di coinvolgere una certa borghesia illuminata milanese, quella è stata una scelta che lo stesso staff ristretto di cui avevo fatto parte come dire, ha incontrato una dialettica abbastanza accesa tra chi era come dire, favorevole a quella linea, a quell'apertura, e chi o era al contrario o temeva, come il caso mio personale, che quell'apertura, come dire, l'apertura di quel fronte potesse far perdere i voti amici o una componente di voti amici che stavamo recuperando, che era quello dei giovani, diciamo della sinistra più radicale e via dicendo. In realtà lì c'è una sempre una combinazione di dinamiche. Certamente la figura di Pisapia, che era una figura che era stata presentata come un rifondarolo, ma da chi non conosce Pisapia, la famiglia Pisapia, che a Milano in realtà è, come dire, è rappresentante di una famiglia borghese di Milano, a partire da sua madre, con cui io mi sono laureata. Quindi poi la personalità stessa della persona, comunque molto, come dire, equilibrata, della forza gentile, e poi come dire, le nefandezze e anche gli errori pazzeschi fatti in campagna elettorale da lavorati, molti dicono che in realtà non è che Milano sia diventata meno di destra, semplicemente lavorati ha perso, cioè la parte sbagliata, e quindi ha consentito, e anche questa è chiaramente Scusate, c'è ancora una domanda di Gilda, poi non so se ci sono altri. Aspetta un secondo, volevo prima capire chi altro vuole parlare. Io no. Gilda e Caterina, Rosangela, altri? Gilda e Caterina, Rosangela e Paola. Ok, quattro quindi. Io volevo dire che uno dei rischi maggiori che corrono le donne che accettano di entrare nelle istituzioni e mettersi a fare politica nelle istituzioni è proprio il fatto che a un certo punto si adeguano, no? L'adeguamento al modello maschile, al modo di fare politica degli uomini, no? Storicamente sono loro che fanno politica, e quindi c'è questo come dire, progressivo adeguamento a questo modello. E questo cosa comporta? Comporta proprio la perdita come perdono in questo modo le donne di vista, no? Gli obiettivi per i quali poi molto spesso, non tutte naturalmente, ma molte sono entrate in politica. È un po', diciamo così, la perdita della fedeltà a se stesse e al loro genere. E questo che si tocca abbastanza con mano, e l'ultimo intervento mi sembra che proprio vada in questa direzione, perché c'è un progressivo, appunto, c'è una progressiva perdita di fedeltà al proprio genere, ai propri obiettivi, e quindi una progressiva distanza, no? Che si genera rispetto alle altre donne. E il non ascolto, fino ad arrivare alla colpevolizzazione di quelle donne che non partecipano. Ecco perché non partecipano. Noi abbiamo in mano la scuola e la sanità, certo, abbiamo in mano anche la scuola e la sanità, ma in una posizione appunto di subordinazione e il potere che è stato, come dire, dato da secoli alle donne, sia all'interno della casa che all'interno delle istituzioni. Allora, questo rischio secondo me va considerato, va preso in considerazione. Ce le dobbiamo dire queste cose se a Como vogliamo costruire qualcosa. Questo ce lo dobbiamo dire. Secondo punto, un patto fra donne, no? È un patto fra chi si candida, chi andrò a votare e le altre donne. Bene, bisogna dirsi anche i contenuti di questi patti, quali sono i contenuti, in modo che la condivisione crea poi anche forza, da forza a chi va, da forza e da chiarezza e trasparenza rispetto ai desideri. Perché secondo me la forza delle donne, il movimento delle donne ce lo ha dimostrato, nasce proprio dall'ascolto dei propri desideri. Siamo partite da lì, dei propri desideri e dei pensieri che molto spesso sono rivoluzionari per le donne. E allora, non correre il rischio di andare a aderire al modello maschile e mediare, perché molto spesso i pensieri delle donne, appunto, non sono stati rivoluzionari. Per esempio, faccio un esempio e chiudo, il discorso della conciliazione, no? Di cui tanto si parla. E anche su quello discutiamo, perché ci sono anche gruppi di donne che sul discorso della conciliazione hanno tante cose da dire. Allora, va bene, fa bene nella città di Como, come la situazione? È proponibile la conciliazione o forse ci sono altre idee? Per esempio, è un esempio. Quindi l'ascolto e soprattutto il percorrere strade che spesso sono appunto nuove e rivoluzionarie, e mi riferisco soprattutto alla città di Como, e non partire subito e senza partire colpevolizzando e non ascoltando. Okay. Caterina è una nostra mancata, posso dire, una mancata candidata, perché sarebbe stata il 19, cioè, lei è una donna moldava, la nazionalità rumena, e per invitarmi della sua, del suo paese non aveva i conoscenti in lingua, perché sennò eravamo anche più. Io mi auguro di cuore che queste donne che sono oggi qui vengano alle elezioni, ma mi auguro perché noi altre donne che non possiamo partecipare abbiamo bisogno sempre di essere difese non solo da Buongiorno e da Kunzecher, ma dalla politica con P maiuscolo, che è stato detto. Voglio dire che sono rimasta sconvolta proprio questi giorni leggendo su un giornale la confessione di una donna molto coraggiosa che ha detto, mi viene commozione. Sì. Sono rimasta senza un soldo in casa, senza mezzo litro, non potevo comprare mezzo litro di latte per la mia bimba. Io ho ceduto a un uomo, un imprenditore, era scritto italiano, con gli occhi chiusi per poter guadagnare 50 euro per prendere questo mezzo litro di latte per la mia bimba. Non ho guardato niente, non ho guardato in faccia, non ho detto, questa donna è una donna straniera come me, ma può essere anche una italiana. Mio marito, era chiaro che mio marito non ce l'ha il lavoro, questo è il lavoro, io non lavoro, mia bimba è piccola. E allora non ho guardato in faccia, non ho detto anche dopo, grazie o qualcosa, ho preso i soldi, 50 euro, sono andata a casa e ho preso da mangiare per la mia famiglia. E qui io vedo una, non lo so, una disperazione di una donna quale, con il rischio di essere riconosciuta tra gli altri, ha fatto questo gesto di disperazione, era contato, non è da Dario, non è santa anche di santo per andare in televisione a raccontare se dure gli uomini. E una donna che con tanta paura ha detto la sua situazione. In questa tutti i doni che potranno venire, io vedo che anche a noi, da noi qui a Como, in tutta la Italia, forse in tutto il mondo, ci sono le doni come, non dico come me, ma le doni che abbiamo tantissimo bisogno di essere, fare qualcosa quando non c'è niente, fare qualcosa di incontrare e di dare una mano. Perché certe volte io vivo vicino con la signora, non lo so come si chiama, non lo so, magari anche lei non andrà a mangiare oggi. E magari di cui questa donna può essere dopo ricattata, anche di cui è proprietario di polizia. E di cui noi andiamo in prostituzione, per forza. Se io ho paura che mio marito dopo qualcosa esce fuori, andrò seconda, terza, non lo so quante volte. E per cui io non lo so, spero tanto che le donne arriveranno e mi daranno una mano in questa direzione. Magari non parlo oggi della composizione del tempo, ma questa è una molto, che fa molto male, una cosa che mi ha commosso e spero che noi qui a Como magari potremo, perché c'è Caritas, io ho visto, abbiamo fatto delle cose insieme, ma ci sono donne che non dicono niente e noi li sappiamo e passiamo mimo. Vicino e non facciamo il caso nessuno, e questo che io volevo dire. Grazie. Soprattutto ci sarebbero tantissime cose da dire, soprattutto ringraziare davvero, soprattutto in questo periodo, la sensibilità, l'essere vicino a chi ha bisogno. Adesso l'ultimo riferimento penso che sia una dote che noi abbiamo più degli altri, che noi davvero abbiamo più degli altri, in questo momento c'è proprio bisogno di solidarietà, e una dote che abbiamo più degli altri è anche la fantasia, e nei momenti in cui siamo abituati ad amministrare ci inventiamo che le cose possono sembrare più pazze. Tutti mi dicevano non ce la farai mai, ma proprio perché mi dicevano non ce la farai mai, ci mettevo 150.000, ce la facevo, insomma. Per cui questo è la tenacia, la perseveranza, forse degli obiettivi che sembrano magari irraggiungibili, penso che sia qualcosa che ci appartiene dentro. Quindi in bocca al lupo a tutto, ma volevo solo essere anche concreto su questo. Ogni candidato, adesso, qui sembrerò banale, ma per vincere le elezioni bisogna portare a casa i voti. E quindi, per portare a casa i voti, ogni candidato dovrebbe fare il calcolo, proprio l'elenco dei voti a disposizione, che è un esercizio che può sembrare il più cretino del mondo, ma solo facendovi sapendo quant'è il pacchetto che ognuno deve portare a casa per poter essere eletto in consiglio comunale, deve fare. Quindi è un consiglio della massaia media, ma vi posso assicurare che soprattutto nelle elezioni questi consigli sono non abbiate le... Guardate, io quando mi sono candidata che ero incinta del mio primo figlio, tanto per darvi l'idea che adesso ho 26 anni, quindi ho fatto la campagna elettorale con Pancione. E quindi è stato tutto un disastro, cioè un disastro, una cosa così. Mi ricordo che non avevo vergogna di andare a suonare i campanelli. Prima, quando me l'avevano detto, ho detto ragazzi, non mi appartiene proprio come stile, non mi appartiene come stile, ma io sono andata casa per casa e voi non avete idea di quante persone invece mi hanno accolto favorevolmente e hanno apprezzato questo gesto. Tant'è che dopo io, quando ero in consiglio in comune, anche come sindaco, la gente veniva dicendo io vengo felice, cioè qua te, quindi facevo sindaco, confessore, l'amico, l'amica di tutto, capito? Però questo è un fa scattare relazioni qui, noi donne siamo particolarmente abili, che dà fiducia e crea un rapporto diretto che poi è importante, perché la gente certe volte ha paura di entrare nel palazzo perché pensa che sia una cosa. Io continuavo a dire ragazzi, questo è il palazzo vostro, non è mio, è di tutti i cittadini, quindi è importante anche questo piccolo particolare. Grazie. Grazie. io questo lo porto all'attenzione delle future elette. Cerchiamo prima di tutto di fare in modo che le donne che saranno elette non si sentano sole, abbandonate, perché è veramente terribile, vi assicuro, in un mondo, e la politica comunque ancora a predominanza maschile, in un mondo molto maschilista. E soprattutto di mantenere questa capacità di fare rete, perché la nostra capacità maggiore, secondo le donne ci invidiano, è quella di fare rete. Purtroppo invece poi cosa succede? Succede per esempio che io dalla seconda mandato di consigliere di parità finalmente avevo un assessore donna alle pari opportunità, ho detto beh, questa volta mi andrà bene, non c'è più un uomo vero che non capisce niente. Ahimè, penso che prima il compito, io sono l'assessore alle pari opportunità, solo perché una volta mi ero permessa di spiegarle, visto che non conosceva assolutamente l'ignorante sulla figura, ho detto beh, se vuole mi posso rappresentare come se fossi un assessore, ma nel senso di spiegare la mia autonomia, la mia figura istituzionale. Io sono l'assessore, quindi poi c'è stata una battaglia incredibile per cercare di portarmi dei fondi, di portarmi sotto di sé, eccetera, eccetera. Quindi questo lo dico per dire che la mia esperienza è stata al contrario, una esperienza molto difficile come unica donna in un mondo dove appunto c'è una logica di poteri forti, dove le decisioni vengono fatte in questo modo. Quindi l'augurio, visto che avete lavorato in rete, ecco, di mantenere questo gruppo che vi dà forza e che vi sostiene, perché io personalmente ne sono stata privata e questa cosa non mi ha assolutamente aiutato sul territorio, anche quando avevo delle assessore donne di riferimento, assolutamente c'è stata questa difficoltà. Ecco, e quindi c'è da costruire anche rispetto al discorso delle competenze, della capacità femminile. Cioè non diamo per scontato che donna è bella, su questo sono d'accordo, diciamocelo, insomma c'è da lavorare su questo, è vero che abbiamo questa capacità di stare insieme e di fare relazione e di essere sicuramente siamo quelle che sono più vicine al mondo del il volontariato femminile, diciamo questo discorso, quindi sicuramente abbiamo una forza in più, però cerchiamo di trasportarla anche quando poi ci troviamo in un'altra, in un altro ruolo. Se si è da soli, ma anche se si è pochi, è chiaro che poi, come dire, per ragioni nobili o meno nobili, insomma, come dire, puoi essere in prima fila e puoi essere riconosciuta. Se i numeri cominciano ad essere, come dire, più alti e quindi più equilibrati rispetto a quello degli uomini, ognuno può trovare, come dire, il proprio spazio e possibilmente una logica di rete. È tutto, cioè, abbiamo ancora tanta strada da fare, però secondo me effettivamente gli ultimissimi anni hanno fatto fare dei passaggi di pensiero importanti. A me, se io posso aggiungere una piccolissima riflessione personale anche di quest'ultima esperienza, perché è vero, l'avevo detto in partenza, che una delle ragioni per cui le donne non ci sono, perché è fra le altre, è anche quella di una maggiore difficoltà a riconoscersi in questa politica. Io però devo dire che inaspettatamente ho dovuto constatare che il fatto di essere riuscita ad superare il 50% della lista, anche noi abbiamo trovato le stesse difficoltà che hanno trovato tutte le altre liste che si erano poste, anche degli obiettivi più ambiziosi, però io credo che quello che c'è stato in più sia stato che il cuore, l'anima che in me, che stava dietro questa scelta, in me fosse inevitabilmente più forte che in un candidato uomo, probabilmente. E l'altra cosa, che credo di essere riuscita a parlare un linguaggio che alle donne hanno capito. Innanzitutto c'era il timore, ma io non ce la faccio, io non sono capace di fare queste cose. Ma la sottolineatura è stata, dico, ma guarda che noi non ci chiediamo di essere candidata per le promesse di quello che tu dici farai dopo il mese di maggio, ma per quello che tu fino ad oggi hai fatto nella tua storia. Quindi questa sottolineatura, che era una candidatura richiesta perché diventava la testimonianza di un modo delle donne di essere nella società, è stato un linguaggio, è stato un argomento che le donne hanno capito. Quindi c'è anche un aspetto di aggancio, di cosa proponi, come lo proponi, su quali elementi va. Quindi io devo dire, le cose che la mia storia personale, la mia vita non ha, è stata faticosa e nulla in base ad una difesa di numero o di quote che ha, faticosissimo, sempre conquistata. Ma proprio io in questa esperienza ho constatato che la presenza di una donna piuttosto di un uomo veramente fa la differenza e quindi e comunque è un momento per indurre una partecipazione diversa, per riconoscere già i valori. Mi verrebbe da dare una battitaccia inopportuna. Secondo voi lo staff del candidato